9 in punto. È indispensabile che al cartello delle sinistre si opponga un polo delle libertà che sia capace di attrarre a sé il meglio di un paese pulito, ragionevole, moderno. Di questo polo delle libertà dovranno far parte tutte le forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie occidentali. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno a Giuliano Urbani, politologo, ex ministro e tra i fondatori di Forza Italia. Salve Urbani. Buongiorno. Che effetto le fa risentire queste parole? Questa è la versione 94 questa... o la versione Questa è la versione 1994. Ecco, immaginato. Che effetto le fa? Ma mi fa un effetto strano perché dal 94 a oggi sono cambiate molte cose e soprattutto è cambiata una piccola esigenza del paese. Allora Berlusconi diceva un cartello che si opponga, un cartello di forza che si opponga a, e certamente era così nel 94. Oggi quello che servirebbe al paese è un cartello che sappia parlare con un altro cartello per decidere come difendere assieme gli interessi nazionali. Ahimè, di questo non c'è traccia a destra, ma nemmeno a sinistra, devo dire. E questo è quanto secondo la sua opinione. Allora, oggi noi vogliamo cercare, per quanto possibile naturalmente, per quanto sia limitato lo spazio che abbiamo, di avviare una riflessione che non è sul videomessaggio o sulla decadenza, francamente, lo sapete, da questi microfoni l'abbiamo detto spesso, abbiamo avuto l'impressione che per un mese e mezzo e più di un mese e mezzo in realtà la politica si sia avvitata intorno a queste vicende, pur per certi aspetti importanti, perché comunque si parla del leader del principale partito di centrodestra, mentre invece tendeva a non occuparsi delle cose importanti, di quello che Urbani ha definito l'interesse nazionale, giustamente. Però vogliamo avviare una riflessione in realtà sul centrodestra, perché il messaggio di ieri di Silvio Berlusconi è una sorta di chiusura del cerchio, una sorta di un ritorno a Forza Italia. Si capirà poi in che forma, in che modo, chi ci starà dentro, insomma questo non ci interessa moltissimo. Vogliamo capire cosa resta del centrodestra e di quella che dovrebbe essere l'attenzione ideale di un partito come quello fondato da Silvio Berlusconi e del centrodestra in genere dopo 20 anni di dominio assoluto da parte del Cavaliere. Cosa succederà dopo? Che ruolo e che peso hanno avuto anche le occasioni mancate di riforma da parte di questo centrodestra? Insomma, una serie di promesse di riforma liberale che non si sono realmente concretizzate o non concretizzate come molti si sarebbero aspettati, perché alla fine è un tema centrale, no? Se siamo al punto nel quale siamo, evidentemente un gioco lo ha, un ruolo lo ha giocato anche questo centrodestra. Che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? La politica, come si diceva, almeno nella mia lettura, è una sorta di tensione, l'idea di immaginare come può essere un paese tra 10, 15, 20 anni e disegnare questo paese, prospettare le riforme o le idee che portano le... Sono le questioni concrete che portano il paese ad essere come lo vogliamo. Ed è di questo che vogliamo ragionare dal lato del centrodestra. Allora saluto anche Antonio Polito. No, è caduta la linea. Saluto Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, che cosa resta di questo centrodestra dopo 20 anni di Berlusconi, dopo questa chiusura del cerchio con la rifondazione di Forza Italia, Crosetto? Per adesso poco. Nel senso che anche questa alleanza strana col PD in questo governo delle larghe intese, alla fine produce poco dal punto di vista delle riforme, non c'entra a vedere grandi distanze per un centrodestra. Fino adesso c'è stato il tentativo di salviamoci tutti, ma come diceva lei, l'idea di immaginare un futuro a 10-15 anni e di costruirlo con proposte concrete oggi, ho visto ben poco, così come l'ho visto nella sinistra, ecco, cioè, mi pare che sia sia stato il tentativo di sopravvivere da una parte e dall'altra, e non mi riferisco alle vicende giudiziarie, mi riferisco al tentativo di accaparrarsi dei voti in campagna elettorale, una volta per formare grill, una volta per prevalere sull'avversario, ma ci sia stata totalmente l'assenza di quella politica con la P maiuscola, che è la capacità di disegnare il percorso che si vuole dare a una società, cioè immaginare come produrremo il prodotto interno lordo tra 10-15 anni, come lo produrremo con 4 milioni di piccole e medie imprese italiane o con 2-3 multinazionali mondiali che speriamo vengano a dare lavoro qua, lo produrremo col turismo, lo produrremo con l'automotive, cioè, la politica dovrebbe tracciare e indicare queste vie, no? Non discutere di altri temi. Purtroppo a destra come a sinistra non è stato fatto. Io partirei da quello, a me le sigle, gli inni, i nomi dei partiti interessano poco, ecco, il marketing per carità, ma Berlusconi, perché alla fine paga di più il marketing delle idee, ma a me interessa poco, mi interesserebbe più invece un sistema concreto. Antonio Polito, l'abbiamo ripescato, editorialista del Corriere della Sera, autore di un libro che si intitola In fondo a destra, che è appunto una riflessione sulla destra italiana, anche in prospettiva storica. Che cosa rimarrà, Antonio, secondo te, dopo tutto questo? Buongiorno, innanzitutto. Buongiorno. Ma a me ha colpito oggi un'osservazione che ha fatto Pierluigi Battista al Corriere della Sera, ha detto la parola chiave del messaggio di 20 anni fa di Berlusconi, della discesa in campo, era miracolo, e quella di ieri è stata la catastrofe, cioè quello che lascia innanzitutto questa lunga marea che si è alzata centrodestra, con l'elettorato del centrodestra, è stata diciamo un fallimento dal punto di vista della riforma economica del paese. Noi oggi siamo un paese più povero di 10 anni fa, naturalmente non è tutta colpa del centrodestra né di Berlusconi, e siamo un paese che ha conosciuto un declino economico. Dall'altra parte però il grande merito storico di Berlusconi, che potrebbe sopravvivergli, è quello di aver fatto nascere una destra, nel senso che l'Italia ha una storia politica fin dai tempi del connubio diciamo così, di convergenza al centro, una storia politica non bipolare, mentre in altri paesi nasceva e si consolidava il bipolarismo, da noi prevaleva invece sempre una certa ammucchiata centrista, per paura il bipolarismo, che le istituzioni non reggessero il conflitto politico del bipolarismo, e questo è successo poi dopo anche il fascismo, dopo guerra. La prima volta che una destra che ha il coraggio, la sicurezza di sé, di chiamarsi tale, di avere un proprio sistema di idee e di valori, è nel 94, quando Berlusconi riunisce questo elettorato, che poi si è dimostrato sostanzialmente maggioritario nel corso di 20 anni, nonostante qualche sconfitta di tanto in tanto, non a caso sempre subito ad opera di uno che non era di sinistra e non rappresentava solo la sinistra, cioè Romano Prodi. Questo è un grande lascito politico. È importante per me, secondo me, che l'Italia abbia una destra democratica, europea, eccetera, eccetera, ed è un interesse, secondo me, anche dei direttori non di destra, che questo fatto continui e permanga anche dopo l'uscita di scena di Berlusconi. Iniziamo a sentire qualche ascoltatore, va? Poi voglio tornare da Urbani, perché ieri abbiamo fatto una chiacchierata preliminare, prima della trasmissione, nella quale mi ha detto, insomma, qua mi sembra che si balli sul Titanic, però insomma, lo voglio risentire su questo, però iniziamo da qualche ascoltatore. Ugo da Bolzano all'800240024. Ugo, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego. Secondo me, dopo l'esperienza Berlusconi, quello che rimarrà è un esercito di macerie, e questo deriva anche dalle basi su cui questo partito si fonda, cioè su un esercito di signor sì intorno al padrone, quindi sparito lui non c'è nessuna figura che possa essere un riferimento. Io sono storicamente un elettore di destra, provo un sincero imbarazzo alla sola possibilità di dover votare per un Alfano, un Verdini, per dire alcuni nomi che mi vengono in mente. Cioè, tutti quelli che sono stati. Mi scusi, Ugo, una domanda. Lei quanti anni ha? 42. 42. E quindi nel 94 ha votato Forza Italia, che ha votato? No. Io sono sempre stato un pelino più a destra. Mi sono sempre rifiutato di far parte di questa forma di partito, ma vedo l'esperienza bolzanina. Agli inizi degli anni 90 Alleanza Nazionale aveva il 30% dei voti, è arrivato Forza Italia, adesso hanno il 10%. Questo è quello che hanno portato, cioè da un'idea più o meno discutibile che aveva un certo riscontro anche nella popolazione a un disastro totale. Tutto fatto di personalismi, ognuno tira l'acqua al suo mulino, quindi da una formazione se ne sono formate sei, non funziona più niente, perché o si dice sempre sì o bisogna trovarsi un'altra parrocchia. E quindi una parte politica, un'idea non può andare avanti in queste condizioni, perché quando c'è una frammentazione così poi non funziona più niente, cioè non si ha più la forza di portare avanti quella che può essere un'idea. Allora, grazie Ugo per la sua riflessione. Io voglio tornare da Urbani adesso, perché insomma ieri mi diceva qua si sta ballando sul Titanic, forse lo stiamo facendo anche questa mattina, anche se in realtà, come sapete, insomma sulle cose concrete ci siamo spesso, abbiamo il nostro countdown quotidiano che alla fine della trasmissione ci ricorda quanti giorni mancano all'aumento dell'IVA, e ormai lo sapete. Sembra che ci siano ben poche possibilità dal punto di vista finanziario, dal punto di vista delle finanze pubbliche, perché l'IVA non venga alzata, nonostante lo scontro politico si stia spostando su quel fronte. Allora, Urbani, si balla sul Titanic, lo facciamo anche noi oggi. Ma purtroppo la sensazione è esattamente questa, che si stia parlando di questioni secondarie e si ignorino caldamente questioni importanti. Le questioni importanti sono che oggi mi scusi Urbani, una precisazione per gli ascoltatori: guardate quanto mi piace quando arrivano critiche, perché mi sta demolendo la trasmissione. Prego Urbani. Chiedo scusa. No, ma le pare. Non ce l'ho con la trasmissione, e ce l'ho con un altro fatto, che noi siamo sempre più una pericolosissima mina vagante in Europa per i conti europei, in Italia per i fatti nostri, ecco, e di questo problema di come disinnescare la mina, non parliamo. Parliamo delle primarie del centrosinistra, parliamo della decadenza di Berlusconi, tutte cose, come dire, inevitabilmente importanti, delle quali non possiamo non parlare, ma secondarie, viva Dio, rispetto a essere la mina vagante che può saltare dal momento all'altro, e per l'Europa e per noi. Io non riesco a appassionarmi alle cose secondarie, sa? Cioè, nemmeno lei che è tra i fondatori di Forza Italia, nemmeno a lei la appassiona il futuro del centrodestra alla fine. No, mi interessa molto di più il futuro dell'Italia, perché aspetto dei voti a cui consegnarla. Ma non passa anche da quello, insomma, no? Dall'avere una politica che abbia un determinato tipo di tensione ideale da una parte, di tensione ideale dall'altra. Qua qualcuno mi scrive: no, le ideologie sono finite. Infatti sto parlando di tensione ideale, che è una cosa naturalmente diversa. Non passa anche da questo il futuro del paese? Ma certo che passa anche da questo, però questo si chiama convivenza degli italiani fra di loro, quindi non del solo centrodestra o del solo centrosinistra. Qui dobbiamo capire anche come convivere come paese, destra, sinistra, centro e compagnia bella. E quindi il primo punto è il modello di convivenza. Noi abbiamo giocato al bipolarismo, io sono stato uno dei modestissimi fondatori del bipolarismo all'italiana. Poi a un certo punto ho lasciato la politica, perché di questo bipolarismo straccione e stile Titanic non ne potevo più. E questo non è un bipolarismo costruttivo, è un bipolarismo autodistruttivo. Stiamo evaporando nel nulla. A sinistra e a destra si sta parlando di problemi che francamente sono non secondari, ma ancora meno che secondari. Vogliamo uscire per favore da questo circolo viziosissimo? Secondo me è l'ora, e per uscire da questo, in cima a tutto, dobbiamo mettere i problemi dei problemi, che certamente è il debito pubblico. Come si fa a uscire dal debito? E secondo, come si fa a uscire dalle tassazione asfissiante, la pressione fiscale incredibile che giorno per giorno aumentiamo, perché non facciamo nulla per diminuirla. Ecco, allora questa cosa qui unisce, può unire come tensione ideale destra e sinistra, e cioè gli italiani? Non può, deve unirli. Se non ne siamo capaci, scivoliamo, inabissiamo, e peggio per noi, voglio dire, ma finché uno ha fiato, il corpo si batte per gridare all'allarme e per gridare alla necessità di trovare delle soluzioni. Marcello da Roma, buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Prego. Io volevo fare una piccola considerazione, se possibile. Cioè, oggi si arriva a dire sempre di più la colpa è della sinistra, la colpa è della destra. Non è vero, perché negli ultimi anni ha governato il centrodestra e nel 2011, a novembre del 2011, Berlusconi ha fallito la sua politica poiché eravamo diventati non più credibili a livello internazionale e a livello europeo. È stato necessario formare un governo cosiddetto delle larghe intese con la presidenza di Monti, che ha dovuto prendere dei provvedimenti amari ai quali l'Italia cerca, con i quali l'Italia cerca di porre rimedio a carico degli italiani. Sentire nuovamente Berlusconi che viene a dire di un nuovo progetto politico e si riparla di Forza Italia, quando lui è stato il padrone assoluto del PDL, che doveva risolvere tutti i mali della politica italiana, portare il liberalismo, eccetera. Beh, è risibile, perché Berlusconi nel PDL non ha permesso a nessuno di dire la cosa diversa da quella che pensava lui. Ha governato l'Italia badando ai suoi interessi personali, facendo delle politiche tendenti alla soluzione dei propri problemi personali. E beh, che cosa c'è stato come risultato? Che alla fine ha dovuto incappare in un procedimento da lui stesso votato, la legge Severino, pensando di farla franca, e invece è dovuto sottostare alla regola. Il principio, secondo me, è proprio che non si è voluti sottostare alle regole, e ogni volta la Costituzione si considerava come un imbarazzo nel procedimento degli interessi soggettivi. 9 in punto. Abbiamo gettato quel seme del nuovo necessario alla modernizzazione del paese sul terreno fertile della nostra antica storia. Abbiamo fatto crescere un albero grande, forte di antiche radici, ma capace di nuovi frutti. Così, questa l'ho scritta alle 3 di notte, è un po' retorica, ma mi sembrava così bella e l'ho tenuta. Così abbiamo avvicinato, questa è un'altra cosa che noi abbiamo che loro non hanno, noi siamo capaci di autoironia. Ed eccolo ancora, 1998 in questo caso. Rosario da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Prego. Niente, io ho visto ieri sera uno spezzone del video di Berlusconi e chiaramente non ce l'ho fatta a vedere oltre. E mi è venuta l'immagine in mente, quando ero ragazzo, quando si vedeva in televisione Brezhnev, così un po' plastificato, mi ha dato una pessima immagine. E poi chiaramente dietro le parole... Lei è un elettore di centrosinistra, Rosario? Un elettore di centrosinistra, diciamo un po' deluso, però sì, okay. Diciamo ideologicamente sono una persona di sinistra. E quindi niente, ho visto questa immagine degli anni 70, quando ero un ragazzino, che vedevi questi Khrushchev o Brezhnev. E poi ieri sera ho visto un passaggio di Lupi alla televisione, dove praticamente dietro c'è tutta la strategia che ha il PDL per prendere tutti quei voti, cioè la negazione del fallimento, cioè loro praticamente hanno impostato una campagna elettorale come se non fossero mai stati al governo, come se al governo ci fosse stato qualcun altro. Sì, allora Rosario, capisco perfettamente il ragionamento, però io vi chiedo di andare un filo oltre. Allora, richiamo in causa Antonio Polito, perché secondo me c'è un elemento importante al di là della qualità dell'azione governativa del centrodestra in questi anni. Ci sono una serie di questioni, al di là anche della questione che ci dicevi prima, cioè il fatto da parte di Berlusconi di aver creato e dato legittimità, se così possiamo dire, ad una destra in Italia. C'è anche un'altra questione, l'aver posto all'attenzione del paese delle questioni che adesso sono diventate centrali. Penso per esempio all'eccesso di tassazione, penso per esempio all'eccesso di presenza dello Stato. E questi elementi sono, secondo me, inscindibili quantomeno dal primo Berlusconi come questioni poste all'attenzione dell'opinione pubblica e recepite dall'opinione pubblica in maniera tanto forte da fargli vincere più di un'elezione. Sì, ma infatti è esattamente. Chiedevi a me, vero? Sì, chiedevo a te, Antonio. No, infatti è esattamente questa la ragione per cui dico che l'Italia ha bisogno di una destra. Nel senso che questi temi, questa sensibilità, questa reazione anche nei confronti di come è stato costruito in Italia lo Stato assistenziale, teniamo presente che lo Stato sociale, il welfare state, è in crisi per ragioni profonde in tutta Europa, ma in Italia ha avuto una versione così particolare e specifica che diciamo, merita una rivisitazione anche più rapida e decisa, perché poi da noi è una delle cause che ha provocato la crisi del debito pubblico, il modo in cui è stato usato. Quindi è questa esattamente la ragione per cui è importante che ci sia una destra, vogliamo dire, liberale, insomma, tanto per intenderci. In Italia, perché altrimenti questi temi rischiano di essere risucchiati, come dire, in un tran tran di antica conoscenza per noi. L'altra cosa che vorrei dire è questa: è vero che noi siamo di fronte a un problema drammatico. Prima parlavo di catastrofe, perché noi siamo a rischio catastrofe economica e di conseguenza sociale nel nostro paese, come diceva Urbani, ed è vero che ci dovremmo occupare innanzitutto di quello, però sappiamo tutti molto bene che diciamo, la politica è una precondizione abbastanza decisiva per potersi occupare di quello. Non soltanto la parte istituzionale, cioè il funzionamento delle nostre istituzioni, quello che gli inglesi chiamano il machinery, la macchina, che è uno dei gravi problemi, una delle cause anche dell'accumularsi del nostro debito pubblico, del deficit che facciamo ogni anno e così via, ma anche la politica, cioè l'esistenza di partiti che abbiano un loro radicamento sociale, una loro ragion d'essere ideale e culturale e che sappiano guidare il proprio popolo verso le cose che vanno fatte, verso le riforme che vanno fatte, che poi è stato la vera mancanza del berlusconismo in questi anni, piuttosto che guidare un elettorato così vasto e così deciso verso un cambiamento radicale d'Italia, lasciarsene guidare ai fini poi di sopravvivenza politica. Questo è un punto interessante sul quale voglio sollecitare Urbani perché chiaramente il discorso si ricollega a quello che diceva, e anzi mi sembra in contrasto notevole con quello che diceva Urbani. Però prima voglio sentire qualche altro ascoltatore a partire da Giorgio da Salerno. Buongiorno. Salve, buongiorno. Io sto chiamando da Salerno. Sì, Voglio l'ho dire solo detto una anch'io. cosa. Voglio dire solo una cosa. Sì. E poi subito chiudo. Prego. Io sono deluso, un accanimento sfegatato contro questa persona da parte di tutti, tutti. Però non vi scordate che dietro a quella persona la maggioranza degli italiani che l'hanno votato ancora ci sta e aumenta sempre di più dietro a quella persona là. Io quando stavo Berlusconi al potere, al Sì, governo. Giorgio, va bene. Voglio capire, secondo lei, che evidentemente è un elettore di centrodestra, un elettore del PDL e poi di Forza Italia, finito Berlusconi, che comunque i suoi 76 anni ce l'ha, allora possiamo giocare quanto vogliamo sul fatto che è immortale, come dice il suo medico, o come dice Brunetta, che sarà in politica attiva fino a 106 anni, però scherziamoci, di anni ne ha 76. Finito Berlusconi, che cosa resta del partito e dei movimenti ai quali lei si è affidato? Questa è la mia domanda, questo è quello che voglio capire. Ho capito la domanda. Io voglio sapere, io dico solo questo, che spero che chi sta vicino a Berlusconi si prenda i consigli di Berlusconi. Io mi sono sentito forte in mezzo alla strada, io faccio la guardia non tu, mi Sì. sono sentito forte in mezzo alla strada quando Berlusconi stava al governo, quando governava lui. Dal 94 in poi mi sono sentito forte. Berlusconi. Ma tu, datemi un capo di governo che è amico alla Russia, all'America, alla Germania, alla Francia, è amico di tutti. Giorgio, va bene, ho capito, la ringrazio, non riusciamo ad andare oltre su questa cosa qua, sentiamo se Sandro da Roma riesce a spingerci un passo più in là. Buongiorno Sandro. Sì, buongiorno. Le ho dato una voi. Grossa responsabilità, prego. Buongiorno, io prendo spunto da due cose che ho sentito prima nella trasmissione. Prima una cosa detta da Crosetto, che dico subito, io da un punto di vista di posizioni politiche sono una posizione, come dire, diametralmente opposta a quella di Crosetto, ma condivido quanto lui ha detto quando ha parlato di marketing. Cioè, il problema è stato ed è quello di fare marketing di politica, quando in realtà bisognerebbe occuparsi di problemi di prospettiva, andare a guardare avanti e capire dove saremo e dove vogliamo andare nei prossimi 10-15 anni. Quindi giustamente la dialettica tra sinistra e destra dovrebbe essere incentrata su dare una strada al nostro paese, indicare una strada da percorrere, e questo è fondamentale. Purtroppo negli ultimi 20 anni questo non è accaduto. E prendo spunto su questa cosa anche da quanto detto da Polito, quando ha detto il grande merito di Berlusconi è quello di aver dato una forma alla destra italiana, perché prima non c'era. Questo è vero, però è pure vero che se questo è il merito ed è glielo riconosciamo, è giusto che ci sia una vera destra per creare una vera dialettica politica, è altrettanto vero che il demerito di Berlusconi è stato quello di portare la dialettica politica sempre su un piano personale, su un piano di scontro, su un piano di come dire, emozioni, di pancia e mai di testa. Guardi Sandro, abbiamo provato tra l'altro ad averlo in trasmissione stamattina, ma non ce l'ha fatta. Le consiglio una lettura interessante su questo tema della pancia, un altro libro appena uscito a proposito, che si chiama Il Berlusconismo, un libro del professor Orsina della LUISS, che secondo me su quello le può dare qualche indicazione interessante. Insomma, io l'ho comprato giusto ieri pomeriggio e gli ho dato una scorsa generale, però da questo punto di vista, dalla questione pancia-testa, che è la questione sulla quale si ragiona sempre, secondo me le può dare qualche indicazione interessante, perché la tesi del professore è che in realtà non è esattamente così. Comunque, allora Urbani, un po' un punto per raccogliere queste voci che sono arrivate agli ascoltatori, anche l'osservazione di Polito, che poi alla fine, se vuole, era l'osservazione con una minore capacità, no, di esprimerla, che le facevo anch'io, insomma, no? Quella della questione della tensione ideale, quindi del fatto che la politica, per uscire da quei drammi di cui ci diceva e che noi raccontiamo tutti i giorni, è fondamentale. È fondamentale soprattutto che uno esca dal proprio orticello e veda la situazione dell'orto generale, del campo generale, perché se guardiamo soltanto l'orticello del centrodestra o del centrosinistra non ne usciamo vivi, per la semplice ragione che sono in gioco interessi e problemi molto più grandi, molto più ampi. Vorrei uscire dal generico, quindi si tratta, se non vogliamo evitare, se vogliamo evitare i rischi di catastrofe che ci stava prima, dovremmo tagliare 60 miliardi di spesa pubblica e tagliare 40 miliardi di tasse. Allora, vogliamo metterci, come si vuol dirsi, attorno al tavolo e vedere come e dove produrre questi due miracoli? No, ci interessiamo delle primarie e della decadenza. Begli scemi. Va bene. Allora, Urbani, bello tosto e bello carico su questa cosa. Oggi chiedo a Gianmarco Ferronato in regia se c'è già la viabilità, così la diamo. C'è un ascoltatore che scrive: basta, vogliamo sentire parlare del dopo disastro, basta, che elettori siamo, non riesco a prendere la linea. Fategli prendere la linea, sentiamolo. 9 in punto. Io sono qui, io resto qui, io non mollo, Ed eccolo qua, siamo ad agosto di quest'anno, no Laura Faggin, se non sbaglio, agosto 2013. Alessandro Longo mi scrive su Facebook: l'unico futuro per il centrodestra si chiama Giorgia Meloni. Spiace che Crosetto non sia più al telefono, però come avete sentito era sul treno, evidentemente si fatica a prendere la linea. Jack Critico, sempre su Facebook: l'azione del centrodestra di Berlusconi si è concentrata solo nel rastrellamento del consenso nel modo più bieco possibile, coccolando i peggiori difetti degli italiani. Nessun serio ideale liberale, nessuna strategia produttiva o industriale. Jack, le consiglio lo stesso libro che ho citato prima, oltre che il libro Ippolito in fondo a destra, per farci un'idea un po' più precisa. Quest'idea comune che Berlusconi abbia coccolato i peggiori difetti degli italiani ha solamente una piccola parte di verità. Allora sentiamo, abbiamo recuperato l'ascoltatore che vuole dire basta, è Luigi da Torino, buongiorno. Buongiorno. Eccolo, non prendeva la linea lei? Non prendeva. Io spesso dalla macchina perché faccio l'agente di commercio e quindi ho anche il tempo per meditare su tutti questi interventi che noi facciamo dal telefono. Sono tutti interventi che riguardano il passato, che riguardano lo schieramento politico, ma io non ho mai sentito nessuno parlare di che cosa possiamo fare adesso, di come ci presentiamo alle prossime urne. Ecco, questo è un po' l'incubo che io ho in questo momento. Non mi interessa se Berlusconi dal 94 adesso ha fallito o se hanno fallito D'Alema e tutti i suoi compagni. Il problema è che noi siamo sottoposti ad una pressione fiscale senza senso. Abbiamo i figli che non sanno che cosa fare in futuro e ci stiamo un po' parlando addosso. Ecco, le prossime urne sono una specie di incubo per noi, secondo me. Questo volevo dire. Oh, bravo Luigi. Bravo Luigi, perché l'impressione generale, e devo dirvi la verità, in parte anche ieri con la puntata, l'abbiamo verificato anche ieri con la puntata che abbiamo fatto sulla Costa Concordia e sulle imprese che hanno realizzato tutta l'operazione di Parbuckling, almeno la parte italiana di quelle imprese, insomma la sensazione anche da quello che ci avete scritto, almeno in parte, è che il paese abbia una gran voglia di futuro, molto semplicemente, che però questo futuro al momento non riesca a vederlo. Giorgio da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Ho chiamato perché, malgrado lei avesse detto all'inizio della trasmissione che voleva parlare un po' di politica profonda, continuiamo a parlare sempre di Berlusconi. Io sono un elettore di centrodestra, ma in questo momento dico basta, ne abbiamo piene le scatole tutti, stiamo andando a rotoli, l'Europa continua a chiederci sempre di più, Olli Rehn è venuto e dice che dobbiamo continuare con il nostro sforzo di rientro dal debito, è ben vero, ma se non cambiamo, non mettiamo la testa a fare qualcosa di diverso, non ce la faremo mai. Abbiamo nuove persone che potrebbero essere il sindaco di Firenze, potrebbero essere la Meloni, che lasciamoli combattere, veniamo di tirare fuori qualcosa, ma dietro tutto ci devono essere gli italiani, l'Italia, la nostra voglia di uscire e il fatto di essere stanchi di questa politica che non dice nulla e non fa nulla. Questo è il mio intervento. Miele per le orecchie di Giuliano Urbani, immagino, le ultime due telefonate. Sì, certo, perché se la pensassero tutti così non saremmo in questa condizione precatastrofica, cioè avremo dei cittadini che controllano la classe politica, premono sulla classe politica per fare gli interessi nazionali. Quindi sono di buon auspicio queste ultime due telefonate. Grazie. Daniele da Vicenza, buongiorno. Sì, ciao intanto. Niente, io ho chiamato perché, come diceva prima il tuo interlocutore, c'è bisogno di destra, però il problema è che in questi anni Silvio Berlusconi non ha creato una classe dirigenziale che lo potesse sostituire, pertanto io non vedo un futuro attualmente come classe dirigenziale della destra, in quanto anche PDL, Forza Italia fa parte di quella serie di partiti con padri padroni che non ci permettono di avere un futuro tolto il padre, e questo non riesco a capire perché non si voglia far crescere una classe dirigenziale attorno al capo. Grazie Daniele, sentiamo anche Francesco da Pescara e poi andiamo a chiudere con Antonio Polito. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Io penso che il problema sia non Berlusconi, Renzi, sia che manca in questo paese una visione. C'è una visione del futuro, lei parlava di futuro, di possibilità. Io vorrei chiedere a uno dei nostri politici cosa immagina che sia l'Italia fra 50 anni, perché fanno delle scelte incomprensibili considerando il futuro, perché hanno il senso della realtà, ma non hanno il senso della possibilità. C'è una visione del futuro, perché tagliano le spese sanitarie, però dove investono dopo? Da nessuna parte. Basterebbe investire nello sport, che riduce i costi sanitari, i dati economici alla mano. No, non si investe nello sport, però si taglia la sanità. Il problema è che nessuno, credo nessuno, poi mi sbaglierò, ha una visione che consente a questo paese di fare un passo in avanti, e la politica sostanzialmente è questa, l'arte del possibile, lo diceva Bismarck, che qualcosa forse ne capiva. Allora, chiudiamo con Antonio Polito, abbiamo ancora un paio di minuti, Antonio, per una domanda, questa veramente complicata. Allora, abbiamo parlato fino adesso, secondo me, per come la vedo io, di macerie sostanzialmente, questo abbiamo sentito dagli ascoltatori, di macerie politiche, la via della ricostruzione da queste macerie qual è secondo te? Ma due cose vorrei dire, è vero che parliamo di macerie, se noi consideriamo diciamo la storia di altri paesi europei negli ultimi 20 anni è una storia completamente diversa, ci sono state crisi ma anche lunga prosperità, crescita, quindi è vero che parliamo di un fallimento di un'intera generazione politica, anche di sinistra, come ovvio. Due cose secondo me sono cruciali. La prima, considerare il compito che abbiamo davanti non soltanto in termini di taglio, cioè è vero che noi dobbiamo rientrare dal debito e dalla spesa pubblica in proporzioni gigantesche, ma detto così ci sembrerebbe impossibile, ci cascano le braccia. Il nostro problema è la chiave del problema è la crescita, perché se riprendiamo a crescere anche le dimensioni del debito si riducono proporzionalmente e abbiamo un percorso virtuoso. Per crescere anche secondo me bisogna tagliare le tasse. La seconda cosa che è importante ai fini di una rigenerazione è che anche diciamo così i due rispettivi popoli politici si considerino diversamente. Abbiamo parlato molto della destra, ma vorrei dire che per esempio a sinistra c'è una convinzione, un atteggiamento come se l'elettorato di Berlusconi fosse antropologicamente diverso, diciamo così, non italiano come gli altri, si parla spesso di parte migliore del paese, di parte peggiore, un popolo di evasori, imbroglioni, che quindi perciò vota Berlusconi. Questo è un atteggiamento totalmente sbagliato, questa parte dell'Italia è non solo maggioritaria ma anche molto produttiva e molto attiva, e non è una parte come dire illegale del paese, tutt'altro, e se i due schieramenti non riescono a considerare l'avversario come italiano allo stesso modo in cui lo sono loro, non ne usciamo. Allora Antonio Polito, io ti ringrazio, ringrazio anche Giuliano Urbani per essere stati con noi, aver preso parte a questa chiacchierata anche con i nostri ascoltatori. Il ringraziamento a Laura Faggin in redazione e in assistenza, a Gianmarco Ferronato in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto come sempre, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati, mancano 11 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.